Il progetto Perry Franklin nasce nel 2006. La musica che ascolterete è frutto di anni di sperimentazione con la luce. Persone con vari delay. Ci sono l'attivo triangolo e alcuni nuovi brani che potrete ascoltare oggi. Buon ascolto e chiudete gli occhi. Provate ad immaginare un posto che non esiste. Thank you. I'm not going to do that.